Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, un coraggioso e controcorrente appello alla libertà di scelta, all'individualismo e anche alla responsabilità naturalmente ci viene dal libro di un noto economista, Pierangelo da Crema, che rivendica la difesa della propria autonomia appunto nel libro Etica dei vizi, come resistere alla tentazione di diventare ex fumatori, ex bevitori e vegetariani. È pubblicato da Rubbettino, 130 pagine, 13 euro. L'autore, ormai non più giovanissimo, è stato un gagliardo fumatore bevitore, fin quando alla vigilia di un recente Natale il figlio medico si accorge al termine di una cena familiare che non tutto va nel verso giusto e effettivamente ha avuto occhio, perché le analisi confermano che il cuore del padre ha seri malanni. E di qua parte il percorso, come scrive l'autore, tra case di cura, medici, familiari e se stesso, di cui parla appunto questo libro, nel quale da Crema racconta il suo travaglio non tanto nell'abbandonare alcol e fumo quanto nel vedere appunto conculcare la propria libertà di scelta. Scrive infatti: fumo e alcol sono piaceri non facili da amministrare, nel senso che contengono il germe della loro trasformazione in vizio, ma comunque li si guardi, quello del piacere resta il loro aspetto fondamentale. Fumo e alcol sono passioni spesso incontenibili e quando cause di forza maggiore imporranno di arginarle o di sopirle fino a spegnerle, si verrà scaraventati nel dolore della separazione. E così sarà una pena simile a quella che solo la amore può procurare, e si avrà un'altra prova di quanto sia vero che certi amori non finiscono mai, così l'autore. Allora sentiamolo per chiedergli come da Crema abbia affrontato questa sfida che, anticipiamo, non lo condurrà all'abbandono totale delle sue passioni. Buonasera Pierangelo da Crema. Buonasera a tutti. Pierangelo da Crema, lei ci presenta questo libro come il racconto fedele di un percorso personale. Ci vuole illustrare le tappe principali di questo percorso? Sì, le tappe principali sono un passato lunghissimo da fumatore, ero un bambino quando ho cominciato, poi un passato che non ha avuto interruzioni di sorta, c'è stato un escalation, poi un contenimento e poi improvvisamente un malessere riscontrato da mio figlio, che è medico, a dir la verità, del tutto asintomatico. Questo malessere ha generato tutta una serie di esami, di analisi, insomma mi è stato detto che sarebbe stato un suicidio continuare a fumare. Ho provato a interrompere e quando sono arrivato sull'orlo del successo, quando mi stava mancando la voglia di fumare, mi sono spaventato, mi sono sentito orfano dei miei vizi e ho abbastanza scientemente ripreso e incoscientemente ripreso, proprio mentre avevo in corso la prima polmonite della mia vita. Era un fatto inedito e mi aveva colpito il fatto che fosse intervenuta proprio nel momento in cui avevo smesso di fumare. A un certo punto lei usa una bella espressione quando parla delle settimane in cui non fumava e non beveva, che senza fumo e alcol le sue giornate avevano perso il loro sfondo, si erano appiattite. Ci vuole spiegare questa situazione? Mi sentivo diverso, mi sentivo snaturato, a parte il fatto che nei primissimi tempi di totale astinenza sia sul versante del fumo che su quello dell'alcol la voglia era imperiosa, ma al di là della voglia, che rimaneva appunto insoddisfatta per questa decisione di smettere, mi sembrava tutto opaco, tutto, insomma, ero diventato emotivamente un miserabile, ecco, ed è stata una brutta sensazione, un brutto percorso, mi ero intristito, però per alcuni mesi ho resistito, ho continuato a resistere, e come le dicevo, ho resistito fino al punto in cui mi sono reso conto che stava scemando sia la voglia di bere che la voglia di fumare, e lì veramente mi sono preoccupato. E infatti lei racconta di essersi trovato a un certo punto di fronte a una specie di trivio, a dover scegliere fra tre opzioni, e ha concluso con un processo decisionale relativamente al quale leggo le sue righe, niente da fare, una serena riflessione porta a concludere che la strada dell'ideale, cioè lasciare i vizi, non può essere percorsa fino in fondo. Prima o poi ci si trova un bivio che, se si vuole evitare il peggio, induce tutti o quasi a confluire verso l'opzione della sovranità del corpo, che per mantenersi in buona salute o per salvarsi rivendica le proprie esigenze. E lo spirito? Qual è il posto dell'anima, di ciò che non è carnale in tutto questo? Un po' ovunque, direi. C'è chi è disposto a morire per la libertà, quella grande e nobile, c'è chi muore per la più piccola e vile libertà di fumare. Quindi una scelta etica complessa la sua. Sì, non so quanto complesso, oppure recuperando un aggettivo che avevo usato, che lei ha ricordato, non so quanto complesso o quanto vile, però diciamo che lo spavento e il dolore, la sofferenza procurata dal dolore fisico va messa in qualche modo in rapporto a quello che potremmo chiamare il dolore metafisico. Voglio dire, non è che il dolore dell'anima, il dolore dello spirito sia sottovalutabile rispetto al dolore del corpo. Il corpo è un involucro a cui teniamo, a cui dobbiamo tenere, perché siamo tutti più o meno legati alla sopravvivenza, però una sopravvivenza che non desta più emozioni o che comunque avvilisce l'anima, ecco che fa riflettere sulla necessità di trovare un equilibrio, insomma, tra le due cose. Diciamo che per quel che mi riguarda il dolore, chiamiamolo metafisico, mi spaventa di più di quello fisico. In questo percorso contro il vizio c'è una forte componente agonistico, autoagonistica, che emerge nel suo libro. Lei spesso parla di vittoria, di sconfitta. Cosa c'è in gioco in questa gara? In gioco, insomma, una competizione con se stessi. Adesso so che io mi occupo di economia, la competizione è uno degli slogan della nostra epoca, dura da decenni, non so per quanto tempo ancora durerà, per la verità. Però la competizione con se stessi è un fatto che riguarda tutti noi individui, vincere definitivamente può somigliare diciamo concretamente alla vittoria definitiva, però la vittoria definitiva potrebbe lasciare un amaro in bocca, insomma, potrebbe avere un sapore strano. Se sei un militare a tempo pieno, effettivo, vincere definitivamente potrebbe lasciarti solo. Ecco, la vittoria definitiva, per quel che mi riguarda, sul fumo e sull'alcol probabilmente mi avrebbe lasciato solo, cioè mi avrebbe lasciato privo di un'identità o di una personalità che comunque è quella della mia vita, dato che la maggior parte del percorso della mia vita è già alle mie spalle, credo di poterlo dire, e quindi da qui, da queste considerazioni, la necessità di recuperare un'identità, adesso la chiamo un po' così pomposamente, ma di fatto nel mio caso io mi ero sentito orbato di una parte troppo rilevante di me stesso, e quindi insomma ho deciso di ripercorrere la strada del vizio, magari in modo un po' più misurato, ma per continuare a sentirmi me stesso, ecco. Ecco, quando lei riallaccia un rapporto con il fumo, come dice lei stesso, lei spiega che si corre qualche pericolo anche a ostinarsi a seguirlo, il proprio destino. Si tratta tuttavia di comprendere come sia proprio questa disponibilità a rischiare che potrebbe procurarci la soddisfazione di diventare se stessi, esserlo fino in fondo, costi quel che costi. Quindi non vuole fare l'apologia della nocività, però in qualche misura vuole difendere la sua libertà, mi pare. Sì, questo è davvero fondamentale, ecco un tema, adesso non so quanto approfondito, ma un filo rosso che percorre il libro è il tema della libertà, e la libertà è pericolosa per definizione, perché è un campo aperto, però io continuo a preferire un campo aperto, anche un campo che lascia libertà nelle scelte più rischiose. E diventare se stessi è un percorso più o meno lungo a seconda di quanto dura la vita, che sappiamo però essere breve per definizione anche quando è relativamente lunga. E il fatto che appunto la nostra piccola esistenza davanti alle dimensioni abnormi dell'eternità ci deve dare un senso delle proporzioni, mi fa scegliere la strada della libertà, la strada del rischio di diventare se stessi, costi quel che costi, costi anche, adesso rischio di usare un'espressione un po' blasfema, ma costi anche qualche anno di vita, insomma. Dopo questa intervista si accenderà una sigaretta, professore? No, ce l'ho già in mano, mi perdoni. Il vantaggio della radio. Buonasera a Pierangelo da Crema, autore di Etica dei Vizi. Buonasera a tutti, buonasera e grazie. Probabilmente da Crema non avrà bisogno del recentissimo Sorsi, come farci una cultura alcolica, di Marco Scardigli, storico militare appassionato di cultura gastronomica, e Roberto Sbaratto, che invece è attore e regista. Il loro libro, pubblicato da Interlinea, 108 pagine, 12 euro. Evitando i mostri sacri della letteratura alcolica, gli autori offrono qui una panoramica, come spiegano essi stessi, di fonti meno note e prevedibili, un itinerario ragionato dell'alcolico che si trova nei libri in massima parte, nei fumetti, nel cinema, nel teatro e nella musica. Troverete Euripide ai fumetti, Hemingway di fianco a James Bond, la Bibbia allo stesso tavolo con Capitan Fracassa. Insomma, una storia, una metodologia e una filosofia del bere arricchiti da molti, come avete sentito, riferimenti bibliografici e artistici che si concludono con questi versi del Banco del Mutuo Soccorso. Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domenica prossima chiude ad Ancona la Sala Vanvitelli della Mole la mostra Toccare la bellezza, che ha come protagonisti Bruno Munari e Maria Montessori, di cui ad agosto ricorderemo il 150° anniversario della nascita, che avvenne a Chiaravalle, poco distante da Ancona. Questa mostra, curata da Fabio Fornasari, affronta il valore estetico della tattilità intrecciando il pensiero e le esperienze appunto di Montessori e Munari. Il catalogo della mostra è di Corraini, 244 pagine, 32 euro, e di Maria Montessori è uscito in prima mondiale il libro Il peccato originale, pubblicato da Scolè, 204 pagine, 15,50 euro, che è il testo di una conferenza del 1921, di cui troviamo anche la versione in lingua inglese, che l'autrice tenne a Londra per iniziativa del convento delle Suore dell'Assunzione, che erano state accusate di naturalismo per eccessiva simpatia nei confronti della stessa Montessori. E proprio per rispondere a queste accuse che venivano da alcune frange cattolico-conservatrici, Maria Montessori affronta in questa conferenza questo tema, quello del peccato originale, che ritenne ideale per per affrontare e smontare appunto le accuse che le erano state rivolte. E in effetti ebbe successo, perché la conferenza riuscì a rassicurare gli ambienti cattolici ufficiali. Il testo è presentato da Fulvio De Giorgi, storico dell'educazione e studioso di Montessori, e seguito da un altro breve testo della Montessori di 10 anni dopo, sui reattivi psichici, cioè gli elementi, come spiega l'autrice, che possono illuminare la realtà distinguendo tra loro le cose che giacevano confuse insieme. E a questo punto il confettino. Su Maria Montessori vi segnalo di Daniela Palumbo La voce dei bambini, è pubblicato da Einaudi, 116 pagine, 11 euro, che racconta ai giovani lettori la vita appunto di Montessori, il significato e l'attualità del suo impegno. E agli adulti invece segnalo di Thomas Licona, psicologo americano dello sviluppo, il libro Come crescere bimbi gentili, insegnare il rispetto e la gratitudine per creare una famiglia felice, pubblicato da Mondadori, 320 pagine, 19 euro, ed è tradotto da Gabriella Tonoli. Il modello di Licona è Benjamin Franklin, per il quale, e ci ricorda l'autore, non vi è nulla di più importante per il bene comune che educare i giovani alla saggezza e alla virtù. E aggiunge l'autore, se Franklin oggi fosse ancora vivo sarebbe sconfortato. Ai genitori tocca la sfida principale, e in particolare questo coinvolge pesantemente il loro ruolo. Ma perché insistere sulla gentilezza? Secondo l'autore, perché essere gentili a scuola, in famiglia e in ogni altro ambiente sociale non rende solo felici gli altri, rende felici anche noi. Nuovi studi, aggiunge, stanno scoprendo che persino bambini molto piccoli sono più felici quando agiscono con gentilezza e disponibilità. E Licona approfondisce nel libro le 10 virtù fondamentali che aiutano i bambini a essere gentili, e cioè la saggezza, la giustizia, la fortezza, l'autocontrollo, l'amore, l'atteggiamento positivo, il grande impegno, l'integrità, la gratitudine e la umiltà. Due perfide riflessioni sull'educazione troviamo in un sorprendente libro di Régis Geoffroy, che è uno scrittore francese pluripremiato, di cui è uscito anche in Italia Microfiction. È pubblicato alle edizioni Clichy, 1018 pagine, 25 euro, tradotto da Tommaso Gurrieri. Nelle oltre 1000 pagine troverete esattamente 500, ovviamente brevissimi, racconti raccolti in ordine rigorosamente alfabetico per titolo. Dunque apparentemente un caos narrativo che vuole esprimere l'umore dell'epoca. Noi siamo permanentemente super eccitati da prospettive contrastanti, scrive infatti l'autore. Allora ogni novella diventa un micro romanzo. Per esempio, dicevo prima, si parla di educazione dei figli, figli virtuali, in bambini smaterializzati, ambientati in un futuro cupo e digitale, dove le macchine ci governano e regolano anche la perpetuazione della specie, sottoposte ormai alle regole dell'intelligenza artificiale, come recitano queste righe. L'altro giorno mi hanno rimproverato l'intenzione di chiedere un permesso. Un'idea che mi sarebbe venuta in mente tra una decina d'anni, quando mi sarebbe venuto il ghiribizzo di festeggiare i miei 40 anni nel mio natale Arkansas. Assentarsi non è previsto. Mi hanno detto che in compenso potevo chiedere di approfittare di vacanze immaginarie con moglie e bambini. Non ho figli. Mi è stato risposto che la mia attività psichica era stata sposata a quella di una collega delle cucine con cui ho episodici rapporti sessuali e che sarebbero presto esistiti una sfilza di figli. Sapevano già che non avremmo mai avuto la minima velleità di entrare in contatto con quei bambini smaterializzati. Avrebbero eternamente soggiornato nel limbo di una memoria morta che con la loro madre avremmo deciso di dare in pasto ai gabbiani. L'altra micronovella dedicato al tema è Educare senza lasciare tracce, il ritratto sardonico e cupo di un bambino delinquente destinato a una grande carriera di killer. Siamo partiti da una mostra e da una donna straordinaria e concludiamo con un'altra donna e un'altra mostra anch'essa ambientata nelle Marche. La donna è Anna Kuliscioff, la celebre esponente del movimento socialista di cui fu apostolo in Italia, dove in particolare si legò a Filippo Turati. Di Kulishov, nata probabilmente nel 1857 in Crimea e morta a Milano nel 1925, esce un libro che rivela un aspetto importante e poco noto della stessa, cioè quella di medico. Anna Kulishov, infatti, fu una delle prime donne a laurearsi nel 1886 a Napoli in medicina. Ricostruisce questa vicenda Francesca Zazzara, medico, igienista e pubblicista, in Anna Kulishov, donna rivoluzionaria medico, storia della dottora dei poveri nella medicina del suo tempo. È pubblicato da Biblion e Fondazione Kulishov, 178 pagine, 16 ore, presentato da Giorgio Cosmacini, il quale ricorda appunto come Kulishov sia stata una delle protagoniste che trasformano la medicina sociale in socialismo medico, e ricorda una citazione di Mario Borsa: la sciora Anna era la dottora, colei che nelle case operaie dove giaceva un malato era sempre attesa come una benedizione. La sua non era la visita di un medico, era qualcosa di più. E questo filone dell'impegno di Kulishov il libro ricostruisce, anche con una ricca documentazione fotografica che ci restituisce anche l'evoluzione della medicina e dell'assistenza nei primi del secolo scorso, quando tra l'altro si cominciò a parlare di temi ancora molto attuali come quello dei vaccini. Il movimento antivaccinista infatti si era manifestato fin dalle prime scoperte sui vaccini, e già allora Kulishov, che era molto sensibile al tema, mostrò qualche riflessione, qualche perplessità. La sua maternità la spingeva a essere favorevole ai vaccini, d'altra parte nutriva qualche dubbio, anche se poi concluse: sono rimasta stupita, questa è una sua citazione, del modo superficiale, poco serio e poco scientifico come è trattata una questione così importante da uomini non ignoranti, giacché sono professori e dottori in medicina la maggioranza. L'altra mostra marchigiana invece è ad Ascoli Piceno, dove fino al 20 maggio presso il Palazzo dei Capitani è in corso l'esposizione Forme del Paesaggio 1970-2018, dedicato a Tullio Pericoli, che è nato a Colli del Tronto, molto vicino appunto ad Ascoli Piceno. Di Pericoli sono esposte 165 opere che hanno come tema il paesaggio. La mostra è curata da Claudio Cerritelli, il catalogo di Quodlibet, 25 euro per 256 pagine. Vi segnalo in questa occasione due libri di Tullio Pericoli. Uno uscito già da qualche mese, Incroci, pubblicato da Delfi, 98 pagine, 12 euro, che raccoglie testi e immagini ispirati soprattutto a persone e artisti incrociati appunto da Pericoli, che parte con un personaggio popolare della sua infanzia colto appunto nel paese di nascita che Pericoli così descrive. Il paese dove sono nato, Colli del Tronto, si allungava seguendo il crinale della collina. Uno stradone lo tagliava per il lungo, da una parte all'altra, incontrando case piuttosto basse, qualche negozio, la piazza, la chiesa, con due belle scalinate che dal portale si aprono per riunirsi in basso, e l'osteria, più tardi diventata un bar. Oggi non è più così. Il paese si è allargato, nuove costruzioni ne hanno modificato la pianta originaria, però la forma interna è rimasta più o meno la stessa. L'altro libro, recentissimo, è dedicato a un solo personaggio, il celebre intellettuale del Novecento Walter Benjamin. Si intitola Sul farsi del mondo, è pubblicato dalle edizioni Henry Bale in un'edizione limitata di 400 copie, costa 26 euro per 68 pagine. E qui Pericoli illustra due brevi testi di Benjamin del 1933, apparentemente due testi per bambini, che ispirano all'artista le illustrazioni, ma soprattutto una riflessione che qui ritroviamo sulle origini dell'opera d'arte, dominata appunto da quel processo misterioso e inesauribile del farsi, come lo definisce Pericoli, che per lui corrisponde esattamente allo spirito delle pagine del filosofo. E le tavole di Pericoli preparate per questo libro sono esposte a Milano alla Galleria Consadori fino al 14 marzo. Milano, come sapete, vive in questi giorni un periodo di semi-quarantena, e un libro impressionantemente premonitore è un recentissimo romanzo di Ferruccio Parazzoli, lo scrittore milanese, nei cui libri Milano, e in particolare la zona intorno a Piazzale Loreto, è sempre tra i protagonisti principali. Nel suo ultimo libro, Happy Hour, pubblicato da Rizzoli, 204 pagine, 18 euro, Parazzoli ci presenta una Milano in quarantena, ma la causa della quarantena questa volta è ancora più drammatica di quella che ha bloccato la città in questi giorni, in queste settimane, cioè un'ondata misteriosa di suicidi. Su questo caso discutono e lavorano un professore universitario che è intento a un corso dedicato alla peste di Camus e quindi è naturalmente portato a studiare i paralleli tra quel libro e questo morbo misterioso, una sua studentessa che ne contesta le tesi e un altro studente, un forse mancato prete, che sogna di lanciare una rivolta niente di meno che contro il nichilismo, un nichilismo di massa, scrive, che svuota di senso ogni azione. E il libro ruota appunto intorno alla ricerca delle ragioni di questo morbo misterioso. Perché la gente proprio a Milano si suicida in proporzione così forte? Prima pigramente si attribuisce la causa di questo al dilagare della crisi economica, ma la crisi economica non c'è solo a Milano, e anzi a Milano i poveri e per esempio gli immigrati non si suicidano affatto. E allora ci si comincia a interrogare perché proprio Milano. Il professore si chiede perché proprio questa città internazionale, città del benessere, città da bere, che cosa c'è di morboso come il suicidio, mi chiedo, in questa città che non si riscontra o si riscontra appena in altre città italiane. E alla fine sarà un prete di periferia a indicare una delle ragioni più serie di questo misterioso morbo. E infatti il prete Don Ciaffi dirà: non è una teoria, una certezza è la mia. Causa del morbo è la glaciazione. Ha presente quei pesci congelati nelle vasche dei supermarket? Sono belli, intatti, argentei sotto le luci, ma sono morti. A toccarli si gelano le dita. L'umanità sta tornando verso un'epoca di glaciazione, raffreddamento di ogni sentimento, disinteresse, impulsi primari, compreso quello sessuale. Parazzoli fotografa allora così la città insicura e colpita da questa malattia misteriosa, con la gente che, scrive, quando si trova ammassata per necessità come in metro nelle ore di punta, comincia a guardarsi con sospetto e per quanto può ciascuno prende le distanze dal vicino. Oppure ancora le stazioni centrali Garibaldi, Cadorna, Porta Genova, da dove non partono e non arrivano treni se non di approvvigionamenti, come per gli autotrasporti e posti di blocco, sono uno spettacolo da catastrofe nucleare. Deserte, nessuno parte, nessuno arriva, la città di Milano è un'isola senza approdi. Ma alla fine se ne uscirà, la città infatti ritroverà una rotta anche dopo tanti tentativi di rivolta, appunto per vincere questa anomia, questa mancanza di senso, e alla fine a Milano la gente si risveglia, scrive Parazzoli. La rivolta l'ha fatta uscire dall'ipnosi collettiva, nessun suicidio più registrato da giorni, il ministro della Salute di Roma ha decretato la fine della quarantena se non ci saranno nuovi disordini. Insomma, tutta Milano torna alla normalità, non è passata nessuna crisi economica, solo la paura è stata esorcizzata, la paura del vuoto, del non senso, la paura della paura che ha creato il mostro del morbo. Insomma, Milano esce più forte e migliore. Con questo augurio, anzi con questa certezza, vi salutiamo con Luca Cremonese, redazione, Paolo Colloni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.